Vorrei colorare come un ragazzo tutti i muri grigi di questa città. E come uno skater schettare libero di qua e di là, di là e di là. Gli occhi contano sempre, il cuore una volta sola e per sempre, mentre ciò che abbiamo spesso lo perdiamo, in questa maniera noi cresciamo. Come uno skater, surfare su ste waves in un mare metropolitano. Come un writer, pittare su sto grigio cercando un muro che sia forever. Io che la mia vita è un casino, tu che lo stesso di cuore sconfino, cercando un tempo migliore. Scrivo questa canzone perché mi è difficile parlare con paroloni, cantando la libertà nella creatività. In questa giungla metropolitana, davanti a me tu sei qua. Ora ti prego parla di la verità. Io che la mia vita è un casino, tu che lo stesso di cuore sconfino, cercando un tempo migliore. Scrivo questa canzone perché mi è difficile parlare con paroloni, cantando la libertà della creatività. In questa giungla metropolitana, davanti a me tu sei qua. Ora ti prego parla di la verità. Vorrei colorare come un brighter tutti i muri grigi di questa città. E come uno skater schettare libero di qua e di là. Gli occhi comprano sempre il cuore una volta sola e per sempre, mentre ciò che abbiamo spesso lo perdiamo. Come uno skater surfare su ste waves in un mare metropolitano. Come un writer spittare su sto grigio cercando un muro che sia forever. We'll be right back.